nostro amor s'accapri, che quanto sia d'amore, che l'aria è sempre chiara, che non esiste sera, e che se viene a mare, so tutto il nucleare, e quando vierno pare, che sempre primavera. Isola azzurra, città del sole, sospiro d'angelo, caduta a cielo, tu fino a cannola, intorbello, fino a canzone. Dorme le vela mare, ma l'anima sospira, finto silenzio d'oro, musica e pittura, spalacrema d'amore, che fa più triste e chiare, l'occhio e la cura spara. Azzurra, città del sole, sospiro d'angelo, caduta a cielo, tu fino a cannola, in corbello, fino a Oh,